vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 ottobre il sole in regione è sorto alle 7.36 e tramonterà alle 18.06. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Un progetto di sviluppo agricolo e turistico sostenibile che all'interno del piano di sviluppo rurale coinvolge 9 comuni della destra Tagliamento è il tema di apertura di questa puntata. Nella rubrica del bio, cavoli e verze da mangiare crudi in questa stagione, in quella dedicata all'Università di Udine, protagonista la lana di scarto che si trasforma in concime. In cantina continueremo a parlare di pressatura, dell'uva, di mosto e di proporzioni nella produzione del vino. Le barbabietole rosse da raccogliere adesso e i consigli di coltivazione nella rubrica dell'orto che precede lo spazio della gastronomia, che ci racconta oggi come dietro un grande classico della cucina italiana, la carbonara, si celi una storia piuttosto recente. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana entrante con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano chiudono la puntata. Un progetto di integrazione territoriale orientato allo sviluppo, uno sviluppo sostenibile e l'obiettivo di dar vita ad un distretto rurale innovativo, si chiama Pais di Rustic Amore, sono parole di Pasolini queste, ed è stato presentato pochi giorni fa a Spilimbergo. Ce ne parla Elisa Tomasinsic, che ha supervisionato la strategia del progetto. In poche parole, di che cosa si tratta? È una strategia di sviluppo del territorio che si basa sulla collaborazione fattiva di diversi soggetti, mette assieme un partenariato di soggetti sia pubblici che privati. Chi sono allora questi protagonisti di Pais di Rustic Amore? Allora, innanzitutto ci sono 9 amministrazioni comunali con capofila Spilimbergo, però abbiamo anche San Giorgio della Ricchinvelta, San Martino, Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene, abbiamo San Vito al Tagliamento, Chions, Sesto Regina e Cordovado. Oltre ai comuni ci sono anche diversi altri soggetti, sia pubblici che privati. Abbiamo 7 aziende agricole, cooperative, associazioni, abbiamo le Proloco ed altre ancora. Complessivamente sono 31 partner di questa strategia. Come si inquadra questo progetto sul piano normativo e anche finanziario? Allora, il progetto nasce dalla partecipazione ad un bando del programma di sviluppo rurale della regione Friuli Venezia Giulia. Complessivamente gli investimenti ammontano a circa 3.400.000 euro e il contributo pubblico arriva a 2.900.000 euro circa. Elisa Tomasinsic, tutto parte da un'idea di valorizzazione del mondo rurale, di quest'ambito, in che modo? Il modello agricolo a cui puntiamo, che è quello che vorremmo valorizzare, è un modello agricolo che è rispettoso da un lato dell'ambiente e dall'altro anche della comunità che lo vive, quindi non che sfrutta semplicemente le risorse che ci sono, ma che le valorizza, che le mette a disposizione, che riscopra e favorisca anche la diffusione dei valori che ci sono, che sono valori rurali, culturali, paesaggistici, ambientali, e nell'ottica di valorizzare quello che c'è per far sì che diventi un volano poi anche per l'economia locale, attirando turisti ma non soltanto, e quindi porti proprio ricchezza per il territorio. Ci sono anche dei progetti di agricoltura sociale? Sì, l'agricoltura sociale ha un peso importante nel progetto e in questo senso abbiamo coinvolto diversi operatori, abbiamo delle aziende agricole, i servizi sociali, abbiamo l'Istituto Agrario Il Tagliamento che ci aiuta in questo, abbiamo cooperative, abbiamo associazioni. L'idea è quella di promuovere una inclusività tutto tondo sia nel settore turistico, in questo caso ci aiuta Promoturismo, e poi però anche inclusione lavorativa delle persone fragili. Rimanendo alle aziende agricole, che tipo di risposta avete avuto da loro? Beh, abbiamo avuto una buonissima risposta, ci hanno aiutato in una prima fase del progetto a costruire la strategia, abbiamo fatto diversi incontri, successivamente però abbiamo dovuto selezionare le aziende che potevano far parte del partenariato attraverso un bando pubblico e alla fine siamo arrivati ad avere 3 aziende agricole che fanno interventi di miglioramento in chiave di sostenibilità, 2 che puntano a progetti di diversificazione e un'azienda invece che intende sviluppare nuovi prodotti e una che offre servizi di base per la popolazione. E poi c'è il turismo, soprattutto quello lento. Assolutamente. Il progetto prevede la realizzazione di 190 anche più chilometri ciclabili basati sul recupero però di sentieri esistenti come sentieri rurali e percorsi secondari, e l'obiettivo è proprio quello di mettere in collegamento siti di interesse, ce ne sono moltissimi, con poi le aziende che sono in grado di offrire servizi sia di ospitalità poi che di servizio enogastronomico, visto che abbiamo tante tipicità da offrire. Non solo cotti, anzi, alcuni ortaggi di stagione conservano intatte le loro decantate qualità se mangiati crudi e bio, come ci spiega Cristina Micheloni. Perdonate se oggi darò spazio a una passione o fissazione molto personale, ma la stagione e l'echeggiare dei soliti refrain salutistici mi sono fatali. Di che parlo? Delle crucifere, famiglia di ortaggi che attualmente rallegra i nostri orti, le nostre dispense, le nostre tavole, e fra essi uno in particolare, il cavolo rapa. Sì, avete sentito bene, cavolo rapa, non sedano rapa. Tutti i rotocalchi e le star mediatiche ci ricordano di quanto ci facciano bene i cavoli, i cavolfiori e tutte le crucifere, di quante sostanze antiossidanti contengano e di quanto siano preziosi nella prevenzione di diverse patologie, tra le quali anche il cancro. Però si dimenticano di dire che tutto ciò è vero se li consumiamo crudi e non dopo averli bolliti e ripassati in padella. Allora, quante crucifere crude consumiamo in quantità utile? Qualche ravanello, il cavolo cappuccio, l'esotico daikon, qualche raro estimatore i cavolfiori. Bianchi, viola, verdi non li cuoce, ma troppo pochi conoscono appunto il cavolo rapa. Personalmente l'ho assaggiato per la prima volta nei primi anni 90 in Nord Europa, dove era piuttosto comune a inizio inverno come una delle poche crudità disponibili. Poi con difficoltà l'ho ritrovato in Italia per decenni, ma ora, con soddisfazione, lo trovo dagli orticoltori biologici locali. Per chi non lo conoscesse, e so che siete in molti, è una varietà di Brassica oleracea che sviluppa poche foglie ma ingrossa il fusto poco sopra il terreno. Può essere di colore verde chiaro o violaceo, in tutti i casi è molto ricco d'acqua e dal sapore delicato. La parte edule è appunto il fusto ingrossato, una bella palla che si può grattugiare, condire o affettare e usare col pinzimonio. Si può anche cuocere, ma di questo non parleremo. Seguendo la mia solitaria passione per le crucifere da consumare crude, ho poi scoperto che qualcosa di simile appartiene anche alla tradizione locale, la versarava, che però è una Brassica napus ed è più nota come rutabaga o cavolo navone o cavolo svedese. Però c'ha proprio anche il suo nome friulano, versarava. È una vera e propria rapa, ma ottima da consumo crudo. Entrambi, sia la versarava che il cavolo rapa, possono essere trapiantati a fine estate o inizio primavera e dare quindi produzioni rispettivamente a inizio inverno e fino a quando il gelo ne ferma lo sviluppo, oppure a inizio estate. Nel caso del cavolo rapa le dimensioni limitate ne consentono un più agevole uso, mentre la versarava necessita di qualche amico in più a cena. Non presentano particolari difficoltà di coltivazione, ma attenti alle carenze di boro che ne provocano cavità interne e parti fibrose poco gustose. Ora non è il momento di trapiantarle, però potete assaggiarle cercandole appunto tra gli orticoltori biologici locali, così se poi vi piacciono a primavera sapete che fare. A parte le mie fissazioni, è un ottimo ortaggio con ottimi motivi sensoriali e salutistici per cui consumarlo, e per chi fa orticoltura per la vendita diretta è un'interessante integrazione nell'offerta autunnale e invernale. Cavoli! Per la rubrica che dedichiamo alle tesi e alle ricerche dell'Università di Udine in ambito agrario, oggi è ospite di Vita nei Campi Chiara Spigarelli, master e dottorato in risorse animali. Ha dato vita a una startup che trasforma la lana in fertilizzanti. Come funziona? La mia startup si chiama Agrivello. È nata grazie al supporto dell'Università, degli studi di Udine e della Fondazione Friuli, e dal nome stesso si intuisce il forte legame tra agricoltura e vello di lana. Il mio lavoro in pratica consiste nel trasformare la lana in pellet. Pellet ovviamente non da combustione, quindi non da stufa, ma pellet che una volta interrato in orto o in vaso rilascia pian piano tutte le componenti di cui è ricca la lana, come per esempio la componente azotata, e si presenta quindi come un ottimo fertilizzante per qualsiasi tipo di coltura. Chiara Spigarelli, il primo pensiero è dire ma che spreco usare la lana come concime. In realtà lei ci dice la lana è un prodotto, anzi un rifiuto speciale di difficilissimo impiego e trattamento, almeno nel nostro paese. In realtà è un problema comunitario, non solo del nostro paese, però sì, la lana ad oggi è considerata un rifiuto speciale perché di fatto non ha un utilizzo. Questo concetto sembra alquanto strano se pensiamo a quanto la lana sia legata alla nostra cultura e alle nostre tradizioni, ma ad oggi è un rifiuto speciale semplicemente perché la filiera della lana non si chiude. Gli allevatori infatti tosano solitamente una volta o due volte l'anno le pecore e non sanno in pratica a chi conferire la lana. Premettiamo che le razze allevate in Italia, diciamo prettamente, producono latte o carne, dunque non sono specializzate nella produzione di lana come può essere una razza Merinos che invece viene allevata all'estero, soprattutto in Nuova Zelanda, e dunque le nostre lane sono quindi più dure, sono più grezze, sì, possono essere comunque filate, ma darebbero vita a quei maglioni che abbiamo tutti a casa che pizzicano molto e nessuno comprerebbe. Quindi l'utilizzo tessile è di base non applicabile, sia per una mancata morbidezza, sia per il problema delle fibre sintetiche che ormai appunto troviamo ovunque. Premettiamo anche che la lana è ignifuga, non brucia, quindi è difficile anche pensare a uno smaltimento in inceneritore qualora l'allevatore se ne volesse, insomma, liberare. Dunque il prodotto che sembra rispondere a questo problema e garantire anche una giusta trasformazione per i quantitativi che abbiamo in regione è appunto il pellet di lana, che è comodo, facile e utilizzabile da tutti. Il pellet fertilizzante a base di lana, diciamolo subito, non è ancora in vendita, ma quali sono i tempi che lei prevede per il progetto intrapreso dalla startup? Il mio obiettivo è quello di chiudere la filiera, dunque ora mi sto occupando della tosatura autunnale e si potrebbe aprire anche un altro discorso sul fatto che non ci sono tosatori in Italia. Tra l'altro sono alla ricerca di aiutanti, chiunque volesse imparare a tosare può scrivermi a startupagrivello@gmail.com e colgo anche questa occasione. Una volta terminata questa fase ci occuperemo della trasformazione della lana in pellet durante l'inverno, così da essere pronti con il prodotto per la preparazione dell'orto in primavera. Nello spazio del vino il professor Roberto Zironi resta in cantina dove continua la pressatura per ottenere il succo che diventerà appunto vino. Quando riempiamo una pressa di uva di raspata, una parte di succo per effetto della forza di gravità sgronda attraverso i reni dell'attrezzatura. A seconda della varietà e del livello di maturazione delle uve, questa quantità di mosto di sgrondo, mosto fiore, varia tra il 45 e il 55% in peso rispetto al peso dell'uva di partenza. Questa variabilità dipende dalla cultivar, ma dipende anche dal livello di maturazione, cioè polpe più mature danno produzioni di sgrondo maggiori. Quando chiudiamo la pressa e cominciamo ad esercitare una pressione, sul valore di 0,2-0,5 bar si ottiene una frazione chiamata di prima pressatura, che è pari ad un ulteriore 10-15% del succo rispetto all'uva di partenza. Esercitando delle pressioni ancora maggiori si otterrà un ulteriore 10-15% di succo di seconda pressatura. Se la pressa è riempita con uva intera non si ha immediatamente il mosto di sgrondo, ma sarà sufficiente rompere gli acini per avere un diagramma di pressatura analogo a quella dell'uva pigia di raspata. I succhi ottenuti dallo sgrondo e dalle diverse pressature possono essere vinificati separatamente. Normalmente si unisce allo sgrondo la prima pressatura e abbiamo un vino di classe A, mentre la seconda pressatura darà un vino di classe B. Soltanto nella produzione degli spumanti secondo il metodo classico le diverse frazioni sono vinificate separatamente. Nell'acino le sostanze cosiddette nobili, come i pigmenti e le sostanze aromatiche, sono presenti nella buccia e quindi una rigida vinificazione in bianco caratterizza poco il vino. Ecco quindi che i produttori negli ultimi anni si sono rivolti verso delle tecniche di vinificazione in bianco con delle brevi macerazioni a freddo che possono essere condotte a temperature molto basse, intorno a 5 gradi, a temperature più alte, intorno a 15 gradi, per impedire la fermentazione alcolica, con l'utilizzazione di enzimi estrattivi. In questo caso abbiamo anche un miglioramento in termini di mosto di sgrondo. Queste ultime tecniche sono applicate decisamente a uve di qualità maggiore, perfettamente sane e perfettamente integre. Nell'orto di questo tardo ottobre Sara Bosco ci porta a raccogliere le barbabietole rosse con tanti consigli su come coltivarle. Può essere coltivato sia in pieno campo che in vaso, però in quest'ultimo caso è importante che il contenitore sia sufficientemente capiente affinché si possa sviluppare la radice carnosa. La parte edibile è sia la radice che la parte aerea, ovvero le foglie, che possono essere impiegate come una bieta da costa. Sono colture poco esigenti per concimazioni, fertilità e tipologia di terreno. Inoltre può essere coltivata in zone dove non c'è sole pieno tutto il giorno. La semina viene effettuata quando il terreno ha una temperatura intorno ai 10 gradi, ovvero dal mese di marzo fino a giugno. La semina viene fatta su file distanti circa 20 cm, con le piantine distanti sulla fila di 15 cm e una profondità di presso a poco 2-3 cm. È importante che non vengano messe a dimora in appezzamenti dove l'anno precedente sia stata coltivata sempre la barbabietola, in quanto sono piante che prelevano molti nutrienti dal terreno e si rischia di non averne a sufficiente per la coltura successiva. Richiedono un buon apporto irriguo durante tutta la coltivazione, in quanto si viene colpito da un periodo di siccità, la radice diventa molto fibrosa. La raccolta avviene quando la radice raggiunge una dimensione adeguata. Ciò non toglie che può essere raccolta anche quando questa è piccolina, in quanto non ha un periodo di maturazione. Teme però il freddo invernale, perciò nel periodo autunnale vanno raccolte tutte le radici e poi possono essere conservate per un paio di mesi, senza particolari problemi. Ci sono molte varietà che si differenziano per il colore e la composizione della polpa. Possono essere mangiate sia crude che cotte e si prestano molte preparazioni culinarie. Contengono diversi sali minerali e vitamine, flavonoidi, tra cui gli antociani che ne conferiscono il classico colorito rosso, e molti aminoacidi essenziali utili al nostro organismo. E da questa cultura si possono ottenere delle buone rese, seppur non richiedono grosse lavorazioni per la loro crescita. Un grande classico, la carbonara, tradizione sì, ma tutto sommato davvero recente, ci racconta Roberto Zottar. Parliamo sempre di piatti tradizionali, ma cos'è la tradizione? Per il vocabolario è il tramandare memorie e consuetudini da una generazione all'altra attraverso testimonianze orali o scritte. Ma passare un'usanza da una generazione all'altra, quindi in circa 25 anni, è sufficiente per creare una consuetudine? Per la comunità europea sì, ma per noi no, perché certamente non basta una costante abitudine per un lasso di tempo così breve. È molto opinabile però stabilire un tempo minimo, perché di fatto la tradizione gastronomica è in realtà la somma di tante piccole innovazioni che si consolidano nel tempo, tanto che potremmo dire che la tradizione è una innovazione riuscita. Ci sono poi esempi dove bastano pochi anni per creare una tradizione. Un piatto che riteniamo di tradizione è la pasta alla carbonara, anche se la sua prima attestazione è del 1954, sì, 1954, sulla rivista La Cucina Italiana, dove gli ingredienti sono uova, pancetta, gruviera e aglio. La consacrazione a ricetta nazionale avviene con il ricettario di Luigi Carnacina del 1960, dove viene introdotto il guanciale in sostituzione della pancetta, ma anche la panna, che sarà presente nella ricetta fino agli anni 80, come nella versione di Gualtiero Marchesi del 1989, che prevede ben un quarto di litro su 400 grammi di spaghetti. Nei suoi primi 40 anni di vita, oltre alla panna, altri ingredienti trovano spazio nella ricetta, come vino, aglio, cipolla, prezzemolo, peperone, pepe e peperoncino. Nella versione della carbonara degli anni 90 scompaiono tutti, consentendo l'affermazione lenta ma costante degli ingredienti oggi classici: uovo, pecorino, guanciale, pepe. È plausibile comunque che il piatto sia nato a Roma solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con i soldati americani che disponevano di abbondante bacon e uova. La combinazione del tipico gusto americano uova e bacon con la pasta condita con il formaggio ne ha decretato l'immediata fortuna. Ci fa però strano parlare di carbonara come un piatto di innovazione moderna. Per la ricetta oggi più consolidata, sbattete in una zuppiera due uova intere, due tuorli, 50 g di pecorino romano grattugiato, abbondante pepe e sale. In una padella fate fondere 100 g di guanciale tagliato a listarelle fino a che è leggermente croccante. Cuocete al dente 400 g di spaghetti grossi e versateli nella padella con il guanciale. Girate bene, spegnete il fuoco, versate le uova sbattute alle quali si saranno aggiunti 3 cucchiaie d'acqua di cottura della pasta. Girate rapidamente e spolverate ancora con altro pecorino e pepe. Buon appetito. Ed ora con Amos D'Antonio uno sguardo all'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi in aumento venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27,30 e 27,50 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 25,10 e 25,50. Il frumento tra 28 e 28,50 e la soia tra 59,20 e 59,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10,80 euro e la soia di 21,70 al quintale. Passando ai bovini del macello, è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,70 e 3 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento nel settore dei vitelli da ristallo, le quotazioni accertano che i blu belga maschi vengono pagati tra 6 e 6,50 euro il chilo IVA compresa, i piazzati e rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Miglioramento invece per il prezzo del latte crudo di vacca, Franco Stalla, di origine Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale Pordenone e Udine lo ha quotato da 37,50 e 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine nel settore degli avi cunicoli si segnalano scambi attivi con prezzi favorevoli. I polli a terra vengono pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,56 e 2,60, le faraone tra 2,59 e 2,69, i tacchini maschi tra 1,43 e 1,45, i conigli oltre dei chili e mezzo tra 2,44 e 2,50 e le uova da allevamenti a terra oltre 73 grammi a 16,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale. Ottobre non si è ancora concluso, ma già ne possiamo riassumere le caratteristiche meteorologiche. Nella prima decade si sono avuti 3-4 giorni con piogge, che sono state molto diversificate nei quantitativi da zona a zona. Nella seconda decade ha prevalso nettamente il sole, l'aria fresca e secca, con temperature 2 gradi sotto la norma. La terza decade è iniziata con tempo umido, ma da oggi e fino a fine mese prevarrà, come vedremo tra poco, il sole. Anche questa sarà quindi una decade piuttosto secca. Come per settembre, sono stati pochi giorni di pioggia e questo ha favorito l'agricoltura in generale. Del mese ricorderemo le forti piogge della pianura udinese del giorno 4 con oltre 150 mm, i 70 mm caduti a Tolmezzo il giorno dopo in una sola ora e i 100 mm di Fossalon del giorno 6. In altre zone della regione, in tutto il mese, ha piovuto invece poco. Rilevante poi l'aver sfiorato gli 0 gradi in pianura a metà mese e lo zero termico salito il giorno 20 a ben 4.200 metri di quota. Oggi e domani vi sarà una netta prevalenza dell'anticiclone e quindi di bel tempo. Domani avremo ancora sole, salvo qualche velatura in quota con massime sui 18 gradi e minime sui 5-7 gradi in pianura e 10 lungo la costa. Zero termico a 3.500 metri. Per martedì l'arrivo sull'Italia di un fronte atlantico porterà maltempo al sud, ma sulla nostra regione la previsione è molto incerta. Non è escluso vi possa essere qualche pioggia. Da mercoledì al fine settimana prevarranno correnti di bora nei bassi strati e cielo poco nuvoloso o variabile. Le temperature massime toccheranno i 20 gradi e le minime saranno sui 5 gradi in pianura e 10 lungo la costa, dove la bora mercoledì e giovedì sarà sostenuta. Zero termico sui 3.000 metri. La raccolta dei kiwi potrà quindi godere di un periodo favorevole senza rischi di gelate o piogge prolungate. Termina qui la puntata, ma come sempre vi lasciamo con un proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Simone aliude, la rave ven madure, o madure o non madure, la simet sot si aradure. San Simone, il 28 ottobre, tempo propizio, le rape sono mature, ma comunque, che lo siano o no, si mettono in serbo per conservarle. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi salutano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.